Recito mea culpa e mi sento ancora in botta dall'ultima notta, time ballotta, time che scade, rima che scotta, ancora più fotta e faccio girare la giostra, ma tutto ciò mi costa un nuovo beat elettroposta, racconto la sana incoscienza nostra. 13-8, citando l'inizio, sto mondo in supplizio, un altro tizio, verso nel vizio, spedito sulla terra e via, da allora non c'è più pace per l'anima mia, cresciuto tra i prati di periferia, nel parchino, a 13 anni già scassai il mio primo motorino, sono vivo a raccontare, non c'è un cazzo di inventato, connesso e già troppo immischiato, parto da Comacchio, carico tutti e non faccio fermate fino al capolinea a Quacchio, la mia vita uscita dai binari, che sfiga, ma tu non mi hai mai visto fumare all'obelisco e il mio compare è accasciato, Cristo, mi autodemolisco, la mia coscienza è un continuo fischio, chiedi a chi c'era, materia imboscata alla frontiera, fra l'ombre della sera, manette poste al cervo, fatti di extra sull'asfalto, a 100 schiva un cervo, un inferno che ti racconto ogni giorno, è vissuto a mille, non ne hai più, ma le ho tutte, faccio scintille. Sano, sano, sano per niente, non ti curar di chi ti reputa incompetente. Sano, sano, non sanno ben niente, inchiostro sulle impronte, ora sono un delinquente. PSSSI in scaletta più vicende, sector sopra il mic, un pazzo incosciente. Sano, sano, sano per niente, non ti curar di chi ti reputa incompetente. Sano, sano, non sanno ben niente, inchiostro sulle impronte, ora sono un delinquente. PSSSI in scaletta più vicende, sector sopra il mic, un pazzo incosciente. Sì, un incidente, mi venisse un accidente. Le cicatrici che ho addosso parlano per sempre, ma non fa niente, il dolore si riaccende ogni volta che rileggo questi versi sulla pelle indenne. Mi rifaccio sgrillettando una quattordicenne, sciroccato, scioccato, mi riprendo con rime che ti scassano. Ho un'altra notte di fuoco, mi parcheggio sopra un platano. Ho scontato, mi ha pestato il gorilla dentro la Vien, con la gang dentro i cessi, piste di cocaine, esplosioni da Big Bang, dico bella Petroslang. E vecchi S-Men uscita 4, con la bamba, la ganja, il fottuto alcol. Alle volte mi faccio proprio schifo, tu parli forbito, io ho appena sboccato tre parole ad un mio amico che mi ero masticato e mi ha pure capito. Se la storia scotta, no, non apro bocca, il cervello suda, infame code puta, me la faccio con la traccia di nascosto e la spoglio nuda.